Introduzione del reato di immigrazione clandestina che prevederà l'arresto, allungamento fino a 18 mesi del periodo di detenzione nei CPT in attesa dell'espulsione, inasprimento delle norme sulle richieste di asilo e di ricongiungimento familiare, oltre che sui permessi di soggiorno, fino al rafforzamento dei pattugliamenti marittimi. Le nuove norme in materia di immigrazione clandestina che il governo Berlusconi si appresta a varare saranno da domani oggetto di discussione a livello tecnico all'interno del più generale pacchetto sicurezza. Un punto del piano coincide con la controversa normativa in discussione in questi giorni in Europa, già ribattezzata direttiva della vergogna dai gruppi di sinistra all'Europarlamento, ma appoggiata da quasi la metà dei paesi comunitari, Italia e big europei inclusi. Al momento anche questa proposta prevede un limite massimo di 18 mesi di detenzione amministrativa per gli immigrati illegali, oltre alla possibilità di rimpatrio per i minori, al divieto di ritorno per 5 anni nel paese da cui si è stati espulsi e al rimpatrio forzoso non solo nei paesi di origine ma anche in quelli di transito. L'Italia, appoggiata dalla Francia, punta a un maggior rigore. L'Europarlamento però è spaccato e a giugno si preannuncia una battaglia all'ultimo voto. Meno scontati invece gli appoggi europei all'Italia sulla revisione dei trattati di Schengen per la libera circolazione. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.